Bonjour, bidon, diciannovesima puntata. Vabbè, ma che facciamo oggi? Non lo so, ha qualcosa da dire, la troviamo alla fine. No, ma secondo me oggi non la facciamo la puntata. Ma perché no, dai? Andiamo in spiaggia. Sì, ma dai. No. Sì, ma... sono d'accordo, fa sto caldo. Ci prendiamo tre Icnusa a testa. A testa a tre? No. Ce ne andiamo al poeta. Sì, dai, tanto dai. Il tour è finito, non gliene frega più niente ma a nessuno. Ma no, ma c'è la cronometro, magari ma succede qualcosa no. Domani, dai, pomeriggio. Ma poi chi l'ascolta questa trasmissione? Sono tre alcolizzati bergamaschi? Ma non è qualche vero. Qualche perditempo di Cagliari e nulla. Dai, ci vogliono bene, ci dicono che siamo bravi. Dai, cartello, problemi tecnici. Devo dire alla regia che ho questo fastidioso ritorno in cuffia. Pronto? No! Aspetta, ma mi sembra che siamo in diretta. Dici? Mi sembra che abbiamo cliccato. C'è qualcuno? Qualcuno ci sta ascoltando? No, non è partita la diretta. È partita, così, Angelo, senza... è partita. Di buongiorno. Vabbè, allora buongiorno e benvenuti alla 19ª puntata di Bonjour Bidon. Non vedevamo l'ora di essere con voi anche stamattina. Che figura, siamo a Cagliari, siamo in diretta e il Tour de France è bellissimo. E di queste e di tante altre cose parleremo appena iniziamo. Ale! Ma non si può. Buongiorno e benvenuti alla 19ª puntata di Bonjour Bidon. Io sono Angelo Trofa, qui a fianco a me c'è Leonardo Piccione, l'unico che voleva fare la trasmissione stamattina, quindi ricordatevi di me quando sarà il momento. Va bene, ricordatevi di lui e c'è anche il nostro Filippo Cauz, ricordatevi di me quando parlo di Fabio Aru. E lui è tutta colpa di Filippo Cauz, vi ricordo. O di Macron. No, di entrambi, che sono su per giù la stessa persona. Bene, ieri una tappa, la quinta tappa regina del Tour de France, abbiamo visto, se l'avete vista, cos'è successo con la definitiva uscita di Fabio Aru dalla classifica. Dal podio, attacchi, diciamo, in classifica sì, c'è rimasto, classifica, dai. C'è stata attacchi e contrattacchi dei quali parleremo dilungatamente nella puntata di oggi, ma prima di andare avanti vediamo un po' che tappa è stata ieri, cioè cos'è successo ieri, Filippo? Facci un po' il sunto. È successo che possiamo dire che verosimilmente Chris Froome ha messo le mani sul Tour de France. È successa soprattutto una tappa strana in cui è andato in fuga un terzo del gruppo. Mm-hmm. Questa è stata una roba, sì, che non è neanche la prima volta che vediamo in questo Tour. Non vediamo tante fughe, ma quando le vediamo sono gigantesche. Sì, no, in realtà sono spesso piccole, ma vediamo delle fughe enormi. Ieri poteva essere una fuga bidone, c'erano praticamente tutte le squadre. Noi come Bidon amiamo le fughe bidone per definizione. Non è arrivato nessuno dei fuggitivi, è arrivato secondo l'ultimo dei fuggitivi, l'ottimo Atapuma, perché è stato superato da quello che, lo dico senza peli sulla lingua, è il miglior scalatore di questo Tour de France, lo dice anche da come è vestito, perché indossa la maglia Pua, ovvero Warren Barguil, che anche ieri ha fatto un numero d'alta scuola, diciamolo subito. Sì, grande Barguil, ha vinto una tappa in cui già sapeva matematicamente di aver conquistato la maglia Pua a Parigi, invece lui ha voluto onorare l'Isoar andando a vincere questa tappa e l'ha onorato alla grande. Gli è andata bene. Gli è andata benissimo. Gli è andata bene, ma l'ha voluta. Se l'ha cercata. Stavo guardando il segmento Strava degli ultimi 5 chilometri dell'Isoar. Non tutti i corridori del gruppo sono su Strava, chiaramente. Il più veloce è stato Bardet. Barguil è secondo, per cui comunque Bardet ha rimontato. Terza è Annemiek van Vleuten, che ieri ha vinto la Course by le Tour de France, ovvero la prova femminile che si disputa prima. Wow, grandissima. E invece, cosa è successo ieri nella classifica generale, Leonardo? Cosa è successo? Sconvolgimenti? No, sconvolgimenti no. Bardet ha guadagnato 4 secondi grazie agli abbuoni, è arrivato terzo e ci ha provato. Bardet ieri ha detto di non avere rimpianti perché lui sul podio alla fine c'era già arrivato l'anno scorso e quest'anno ha provato a non arrivare, nel senso ha provato ad arrivare sul podio in un'altra posizione che non fosse la seconda, forse sarà la terza alla fine, però magari non magari arriva non seconda. Ci arriva, eh? O magari non ci arriva addirittura. Secondo me non ci arriva. Lo dico. Vabbè, vedremo. Comunque io sono soddisfatto da quello che ha fatto la sua squadra, ci ha provato, ha fatto una cosa diversa dal solito. Ha creduto la Jeu Desert di essere la squadra più forte del Tour, di essere la Sky, e si è comportata da Sky in un certo senso. Poi il risultato sono stati soltanto 4 secondi, ma Bardet ancora una volta ha dimostrato di avere voglia e coraggio. Lui definisce i suoi compagni di squadra guerriglieros. Sono fiero di essere parte dei miei guerriglieros. Il capo dei miei guerriglieros. Il valore dei guerriglieros Rolls ce l'hanno, i risultati forse hanno sono voglia, più magri. Sì, ovviamente se quando Gauthier, Domon e Villermont tirano, loro si staccano, ma Kwiatkowski resta nel gruppo dei migliori, c'è poco da fare, insomma. Va detto anche che il bello della guerriglia è che molto spesso porta alla sconfitta e non alla vittoria. Anche, anche, assolutamente. Poi due parole su Aru, nel senso che sì, abbiamo detto, è uscito dal, definitivamente probabilmente dal podio, resterà nei primi 5, bene complessivamente sul Tour de France, nessuno gli poteva chiedere di vincerlo, ci abbiamo creduto perché nella prima settimana sembrava il più forte in salita, ha avuto un calo, ma ha mostrato anche Aru un bel carattere, una bella voglia di essere presente, quindi va bene il Tour di Aru. Assolutamente promosso, anche se forse dopo la planche de Belfield ci aspettavamo qualcosa in più. Però ci abbiamo sperato. Ma posso farvi una domanda? Questa non ce l'avevamo programmata. Voi siete contenti della tappa di ieri? Vi è piaciuta? Questo era Filippo Kautz e questa invece è la risposta a di me Leonardo. Sono molto piaciuti gli ultimi chilometri in cui, da quando la Je Désert ha preso in mano la situazione. Come avrete sentito, in realtà la tappa di ieri ha dato il via a una serie di discussioni, le avrete lette anche voi su Facebook, nella nostra redazione, grandissimi dibattiti da ieri a oggi, perché c'è la sensazione di avere di fronte a noi un cambio epocale, qualcosa di nuovo nel ciclismo. Noi aspettiamo delle cose e puntualmente siamo un nuovo modo di correre, intendo, molto particolare. E chiediamolo a qualcuno che ne sa di più di noi, no? Assolutamente, stavo per appunto dirvi che noi continueremo a parlare di questo Tour de France che si avvia alla conclusione con una delle figure di riferimento del giornalismo sportivo italiano, un nostro amico, fresco vincitore del premio Bancarella Sport con l'Uragano Nero. Abbiamo al telefono l'onore di avere Marco Pastonesi. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Come stai? Complimenti intanto. Bene, benone. Molto contento, devo dire, per questo Bancarella Sport, perché concorsi primi ci ho mai creduto, però poi quando sei lì che devi combattere, si combatte, e quelle poche rare volte che si vince, insomma, si è contenti. Sei un guerrigliero anche tu, insomma. Beh, sì, diciamo così, dai, mi piace, la figura di chi combatte è sempre bella. A proposito di chi combatte, Marco, tu hai vinto questo premio con un libro dedicato, cioè, sulla figura di Jonah Lomu, il rugbista più forte della storia, e Lomu era un guerriero devastante come potenza, ma anche molto elegante, molto nobile, no? Come giocatore. In questo ciclismo, in questo Tour de France in particolare, c'è qualcuno che può reggere il confronto, ovviamente nel rispettivo ambito, con Lomu? Cioè, chi è il Lomu del ciclismo? Esiste? Beh, Lomu era un velocista, perché correva i 100 metri in 10 secondi e 9, giocava tre quarti ala, che è il ruolo di chi viene proprio lanciato, come se fosse un treno, quello dei tre quarti, dal mediano di mischia, apertura, i centri, l'ultimo è l'ala, ecco, è l'ultimo vagone di un treno, quindi potrebbe essere Marten Kittel, perché grande e grosso, Lomu era alto 1,96 m, pesava 119 kg, mamma mia. E appunto però correva come un centometrista, e potrebbe essere Kittel. In verità, Lomu era di più di Kittel, ecco, non era semplicemente un velocista, uno dagli ultimi 200 metri, diciamo così, ciclistici. E Lomu in questo senso era uno che poteva segnare anche in altre circostanze, in altre modalità, e quindi per me è Sagan, anche perché Lomu, come Sagan, è un eroe, possiamo usare questa parola, un campione, una figura, un atleta amato da tutti, al di là delle nazionalità, al di là delle squadre, al di là dei campanili. Ecco, Sagan è il corridore di tutti, è il campione del mondo, amato da tutti, e Lomu era così, era proprio un giocatore. Sì, All Black, certo, però sopra le parti, era come se indossasse la maglia di tutti quanti. Bello, ci piace questo paragone. No, tra l'altro è quello che noi avevamo ipotizzato, no? Esatto. Cioè, avevamo... chiediamo di Lomu, Sagan potrebbe essere la risposta. Bene, Sagan peraltro è una delle figure che ai noi sono un po' mancate a questo Tour de France, per vicende che non stiamo a ritirare fuori. Quello che mi chiedo è, forse anche per la mancanza di Sagan, non tutti si sono divertiti guardando questo tour. Tu non so quanto l'hai seguito, ma mi chiedo quanto ti sei divertito e quando ti sei divertito in questo Tour de France. Ma senti, io mi appassiono, ecco, più che divertirmi, perché la passione è anche divertimento, ma è anche sofferenza, quindi ecco, c'è tutto questo, e le tappe che mi appassionano di più sono naturalmente quelle di montagna, dove si vede di più, forse dove mi diverto a vedere la sofferenza degli altri, e la misuro e la calibro, e cerco di capire fino a che punto l'uomo corridore riesce a soffrire. E ecco, quello ci riporta a una dimensione primitiva dello sport e del ciclismo, che ha comunque una sua anima primitiva anche adesso nel 2017. Senti Marco, le tappe di montagna. Senti Marco, proprio le tappe di montagna hanno dato il via anche tra di noi a una discussione. Come avrei notato, sia i Pirenei che le Alpi non hanno fatto grandi distacchi. E sul perché non abbiano fatto grandi distacchi, anche tra di noi è nata una discussione. Abbiamo opinioni tutti diversi. Cioè, Leonardo pensa che questo sia indice di una maggiore pulizia nel gruppo, cioè l'assenza di eccessivi aiuti esterni. Esatto. Invece, secondo Filippo, secondo lui non ci sono grandi distacchi in salita tra i campioni perché non ci sono effettivamente dei campioni. Invece io sostengo che sia dovuto anche a un atteggiamento, diciamo, più industriale di alcune squadre che ragionano in maniera quasi fordista nell'organizzazione di alcune tappe. Tu che opinione hai? Secondo te perché non ci sono grandi distacchi in salita a grandi imprese? Ma per tutto questo, perché le squadre giocano un ruolo fondamentale, soprattutto una squadra come Sky in salita è difficile da attaccare, perché non esiste, perché è un ciclismo radio telecomandato, e quindi avere, come dire, un GPS, ognuno ha il GPS della situazione, della tappa, sa esattamente come muoversi, quando muoversi, quanto deve recuperare, cioè è la situazione sempre sotto controllo, quasi, tant'è vero che quando non c'è l'auricolare le cose cominciano a cambiare, un po' perché forse anche perché non esistono tante differenze, e mi auguro perché il ciclismo sia più pulito, anche se ci sono sempre dei risultati sorprendenti, voglio dire, per essere concreto, Roglic è un corridore che è sorprendente, perché viene dal salto con gli sci, da discipline sciistiche, e poi diventa cronoman come Dumoulin, e poi diventa scalatore, e certo favorito da alcune circostanze di gara, ma insomma sono risultati che sorprendono e tengono sempre un po' in allarme. Ecco, io mi auguro che il gruppo sia più pulito, penso che lo sia certamente, ma alcuni comportamenti, alcuni risultati, e guarda caso vengono sempre dalle stesse squadre, cioè da corridori che stanno in una squadra, e lasciano un po' sorpresi, se non stupefatti, e quindi insomma siamo un po' attenti. Ovviamente ci auguriamo che sia una sorpresa sportiva, nel senso che sia tutto merito di una crescita atletica ed individuale di questi corridori, ma al di là di questo, su cui risposta ovviamente non ne possiamo avere. Due settimane fa noi ci siamo sentiti, Marco, e ti avevo chiesto chi era il corridore del tour con cui avresti voluto chiacchierare o che avresti voluto comprendere meglio, e tu avevi detto Froome. Di solito sappiamo tu sei appassionato dei corridori, dei gregari, dei corridori che arrivano ultimi. Stavolta hai detto no, voglio capire come funziona, cosa c'è nella testa di Froome. E dopo due settimane e dopo un altro tour che probabilmente vincerà, hai capito qualcosa in più? O invece no? Cosa ti lascia questo tour di Froome? Mi lascia una grande forza mentale, mi lascia un grande gioco di squadra monolitica, dire, sul suo corridore, tant'è che quando Aru era in maglia gialla, difenderla sarebbe stato semplice o doveroso con una sola tattica, correre su Froome, perché sempre avrebbe Sky puntato su Froome, anche lanciando Landa, capito, da solo, sì, all'attacco. E mi lascia comunque la sensazione di un atleta in leggera ma evidente calo fisico, e non è, diciamo, più il Froome degli anni passati, e comunque mi lascia anche la voglia, chissà mai se la conosceremo, di scoprire l'interno, ecco, di quel motore, capire quel motore come va, non solo i giri, non solo i watt, ma la qualità della benzina. Va bene, Marco. Grazie mille, ti salutiamo, ti ringraziamo. E... sappiamo che sei in viaggio, stai attraversando l'Italia in macchina, per cui non ti teniamo fermo troppo a lungo. Grazie a voi, grazie per quello che fate per il ciclismo. Con questo senso letterario, con questo senso tecnico allo stesso tempo. Bravi. Grazie assai, Marco. Un abbraccio, alla prossima. Ciao. Vi ricordiamo che abbiamo avuto al telefono con noi Marco Pastonesi, uno qualunque. Sì, assolutamente. Ragazzi. Per noi è veramente un orgoglio che lui ci dia credito e che innobilisca la nostra trasmissione. Si dice innobilisca? Si dice, lo stabiliamo noi adesso. Abbiamo appena inventato la parola innobilisca. Io volevo invece aggiungere qualcosa su Froome, a completare il discorso che faceva Marco, perché noi stiamo raccontando il Tour de France bene, molto, negli ultimi 3 anni. Gli ultimi 3 anni sono 3 tour che ha dominato in qualche modo Froome, in modi diversi l'uno dall'altro. E quindi questo personaggio, ci piaccia o meno, con questo personaggio dobbiamo farci i conti. Io un po' ho letto delle cose che riguardano Froome, ho una teoria sul fatto, sulla sua necessità di vincere e questa ossessione di vincere che lui ha. E cioè lui ha bisogno da sempre, da quando è ragazzino, di trovare una giustificazione, un'approvazione da parte degli altri. Lui è il fratello minore, nasce, è il terzo figlio di una famiglia in Kenya, un ragazzino bianco cresciuto in Kenya, è molto solo, cresce molto solo perché i fratelli sono molto più grandi di lui, i genitori si separano e litigano in continuazione, infatti lui non sopporta chi urla, Froome non sopporta chi urla perché gli ricorda le litigate dei suoi genitori. È un ragazzino che arriva a scuola 2 ore prima degli altri bambini perché la madre può accompagnarlo alle 6 del mattino, lo lascia lì e lui è solo. È un ragazzino che si appassiona ad alcune cose e diventa ossessivo, quando gli piace una cosa si ossessiona. Lui si appassiona agli scarafaggi, per esempio, ai serpenti. A un certo punto si appassiona della bicicletta e si ossessiona con la bicicletta. E la bicicletta diventa il mezzo che lui conosce per farsi accettare, per farsi introdurre in un mondo nuovo, che poi diventa l'Europa, diventa il ciclismo internazionale. Siccome non è uno che sta simpatico a pelle, cioè non è Contador, che tu lo vedi scattare, lo vedi pedalare con lo stile, con la casa, dici questo mi sta simpatico, insomma il modo che lui conosce per essere accettato e riconosciuto è vincere il Tour de France, e trova tutti i modi possibili per vincere, nel senso è cambiato, no? Il Tour che ha vinto l'anno scorso è diverso da quello di 2 anni fa e quello di quest'anno è diverso da quello dell'anno scorso, è migliorato in discesa, è migliorato negli arrivi complicati, tecnici, col vento, sul pavé. Quest'anno ha cambiato addirittura la preparazione, cioè ha spostato il suo picco di forma verso la 3ª settimana in modo da non essere sorpreso come era successo negli altri anni. Io ho l'impressione che quando Froome non sarà più a questi livelli e sarà battibile, sarà più debole, diventerà anche un corridore più divertente, perché c'ha questa voglia di evolvere, di cambiare, e probabilmente è un corridore che quando conoscerà la fase veramente calante della sua carriera ci regalerà anche le emozioni che in questi anni forse non ci ha regalato. Speriamo nel futuro, allora. No, questo auguriamocelo. Io ho un'impressione, non conosco il quadro psicologico di Froome come Leonardo, io conosco il corridore, quello che ho sempre visto è solo questa parte, e Quello che ho sempre notato è che Froome è mosso da una sicurezza granitica. È come se in questo tour, è come se Froome sapesse dal primo giorno che l'avesse vinto, che l'avrebbe vinto, ma senza alcuna possibilità alternativa. Lui ha corso ben sapendo che l'avrebbe vinto l'ultimo giorno, tanto che non si è mai neanche dannato per vincerlo particolarmente, no? Si è preso quello che gli arrivava e se l'è portato fino in fondo, aveva il vantaggio della crono all'ultimo giorno e questo sicuramente lo favoriva per la vittoria finale. E questo è anche un po'... A me sembra che Froome corra davvero solo quando è sicuro di vincere. E questo è anche uno dei motivi per cui non lo vediamo nelle classiche, non lo vediamo in altre prove che non sono il tour. Lui o vince o non si presenta nemmeno. E si presenta solo quando ha questa certezza. E questa certezza gli permette effettivamente di vincere e di guidare... Non è carisma il suo, però è una forza tale. Io lo trovo anche un po' un bullo, Froome, come atteggiamenti che ha in gruppo rispetto agli altri, anche nelle interviste che si leggono ogni tanto. L'altro giorno leggevo che si lamentava perché la Trek ha fatto un ventaglio mentre lui stava mangiando. Come sì, se è vero, no? Se... o tutte le volte che alza la mano sui problemi meccanici. Ha un po' questo atteggiamento da padrone della corsa, che però funziona. Gli altri glielo riconoscono. Forse anche la bruttezza di quel ventaglio della Trek era dovuta al fatto che Froome stesse mangiando un panino. Non credo. Può darsi che ci sia anche questo. E per cui, non lo so, sarebbe molto bello se avesse un'evoluzione di questo tipo. Io ho paura che invece un Froome, quando non sarà sicuro di vincere, non sarà in grado di competere ad alto livello. Lo vedremo, secondo me, già alla Vuelta. Sì, chiudiamo. Il motivo per cui... Ha spostato la preparazione in là quest'anno è perché lui ci tiene a fare la doppietta, Vuelta. Tutti lo accusano di rendere solo al Tour de France. Lui vuole fare la Vuelta. Vedremo, perché alla Vuelta si presenterà probabilmente sicuro di vincere, ma io non sono così sicuro che vinca davvero. Concludo dicendo che secondo me questa sua sicurezza di cui tu parlavi nasconde in realtà una insicurezza sua personale che si può evolvere in modi secondo me inaspettati, ma lo vedremo col tempo. Lo scopriremo. Abbiamo presentato la rubrica psicologica di Bonjour Bidon. Ragazzi, di Froome non abbiamo parlato mai in questo tour, abbiamo parlato di tutti tranne che del possibile probabile vincitore. Era il caso forse di farlo oggi. Assolutamente sì. Va bene, cioè ovviamente ieri la tappa ci ha fatto un nome, sì, Barguil ha vinto, ma Froome forse ha vinto il Tour de France. Ma per vedere se Froome vince il Tour de France c'è bisogno di cronometrare Froome l'ultimo giorno e per cronometrare Froome servono degli orologi, certo. E gli unici orologi di riferimento della nostra redazione, e spero anche vostri, sono soltanto gli orologi sbagliati del Tour de France. Nonno, che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? No, non la so. Ieri la sapevi? Dai, nonno, raccontamela. Non posso, sto andando a giocare a bocce. Dai, nonno. Ma quanti anni hai? Che te ne frega degli orologi? Sono curiosa, sto scoprendo il mondo. Va bene. Era il 1900... 59, e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. E ogni giorno questa storia, ma che cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? Ma che te ne fai? Non sai neanche leggere. La collezione degli orologi d'oro sbagliati prodotti dal Tour de France, in edizione limitata. Chiamate all'850 50 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume sulla storia della brugola. 850 50 80 90 60 70 80. Io non ce la faccio più. Ma perché non giochi ai Pokémon come tutti i bambini normali? No, io voglio giocare solo con te, nonno. Non ti sopporto. Mi stai accompagnando alla morte. No, non mi fai troppo ridere. Tu no. E quindi ultimi giorni, affrettatevi, perché poi domenica le linee telefoniche mi si chiudono, mi sa. Assolutamente, io ho chiamato tutte le volte, ho ricevuto i tre volumi diversi. L'ultimo, quello sulla storia della brugola, è veramente interessante. Ma se uno invece volesse telefonare per dire qualche parola alla bambina, è possibile? Non credo che risponda alla bambina. Risponde alla bambina. Ah sì, ah, io ho parlato con la bambina ed è, tra l'altro è simpaticissima. Ah beh, meno male, me lo immagino. Bene, ma vediamo insieme come i nostri corridori hanno seguito la corsa. Sì, di ieri. Dai! È arrivato il momento dei cinguettii dalla corsa. Eccoci. Eccoci qua con le immagini che scoviamo ogni giorno da Instagram o Twitter. Le scova Filippo Pelacci per noi. E la prima che abbiamo trovato è di una squadra sicuramente dominatrice del Tour de France, ovvero parliamo della Sunweb. Vediamo in un selfie Matthews e Barguil. Bling 90. Una stanza dominatrice più che una squadra, esatto. Perché questi sono due compagni di stanza che da soli, no, non da soli, però tra due compagni di stanza hanno vinto 4 tappe, 2 a testa e 2 maglie e 1 a testa. E infatti Matthews scrive: il momento in cui scopri che il tuo compagno di stanza ha vinto la 4ª tappa complessiva della stanza, in un certo senso. Ma ieri invece ho scoperto una cosa su Barguil. Sapete qual è il suo segreto? Lui dice di essere il suo segreto, che quando è a casa a riposarsi esce con la sua fidanzata ad allenarsi sui pattini a rotelle. Fanno un sacco di chilometri sui pattini a rotelle. Adesso che lo sappiamo tutti, non è più un segreto, però. Mi dispiace, Barguil. Però, conosciamo meglio Warren Barguil, che secondo me ha tante cose da raccontare. Andremo tutti sui pattini a rotelle con la fidanzata di Barguil per vincere. Che per vincere la maglia Pue l'anno prossimo è il mio obiettivo. Io non so andare sui pattini a rotelle. Manco io, so per questo. Ti insegnerà la fidanzata di Barguil se la contatti. Andiamo avanti con un'altra immagine, sempre di... Ah no, questa è di Twitter, con uno dei protagonisti di ieri, Darwin Atapuma. Sì, Atapuma che scrive: contento della tappa di ieri, anche se non sono riuscito a vincere. E poi dice... Cosa dice Atapuma, Filippo? Dice di non essere felice di aver potuto onorare la giornata nazionale, certo, la giornata dell'indipendenza della Colombia, che si chiama El Grito de Independencia, il grido di indipendenza della Colombia. Noi ieri, diciamo, eravamo sul divano e abbiamo tifato spudoratamente per Atapuma, nonostante Barguil ci piaccia, però era molto bella una vittoria, sarebbe stata molto bella una vittoria di Atapuma ieri, che ha vinto il numero rosso. Ha vinto il numero infatti rosso. Infatti è un'immagine di lui sul palco premiato col numero rosso. Un'altra immagine è di uno dei nostri favoriti, sicuramente dei dominatori del tour di quest'anno, ovvero Kwiatkowski. Sì, Kwiatkowski, che ha pubblicato questo tweet, in cui questo video in cui lui lancia via gli occhiali e scrive: quando sei oltre la soglia, semplicemente non ti interessa quello che fai. Lui lancia via gli occhiali e si mette a tirare. Se ci fosse nel ciclismo una specie di premio MVP come c'è nella pallacanestro, cioè il Most Valuable Rider, probabilmente in questo tour sarebbe Kwiatkowski, secondo me. Ma avete notato riferimenti a Leonardo Piccione? È veramente una persona incredibile. Sa parlare di tutto, dal basket alla sociologia, alla psicologia. È anche molto informato sugli insetti, come Froome. Finché non si parla di ciclismo, qualcosa posso dire. E comunque, secondo me, sarebbe De Gendt, che ieri è andato in fuga di nuovo. Per il decimo giorno è andato in fuga. Io ho fatto i conti che ci sono 9 squadre che, sommando tutti i loro corridori, hanno fatto meno fughe di De Gendt. In questo Tour de France. Ah, magnifico. No, nei prossimi giorni chiederemo ai nostri lettori chi è il loro MVP o MVR del Tour de France. Assolutamente. Infine abbiamo, anzi non infine, un'altra immagine sempre da Twitter, il momento famiglia. Che il momento sappiamo famiglia. Ti piace tanto, ti emoziona, Angelo. E questo molto. È Michael Valgren, compagno di squadra di Aru, che dice: dopo alcune tappe molto difficili nelle Alpi, ci sono ancora alcuni sorrisi rimasti nella cassaforte, nel barile. C'è una persona che mi fa sempre sorridere, è una persona che mi manca molto, ma presto, domenica a Parigi, la rivedrò, ed è la sua fidanzata Sissel. Michael Valgren, che se quelli di voi che stanno guardando in diretta e vedono le foto possono notare come nel corso di questo tour Michael Valgren abbia preso 78 anni di invecchiamento. Vero, in questa foto il singolo gregario di Arno. In questa foto sembra molto molto invecchiato. E infine chiudiamo con un'immagine che non viene dal Tour de France, ma da un amico di Leonardo Piccione, ovvero da un amico di Damiano Cunego. Un amico di tutti, no, l'abbiamo scelta perché ieri noi il pezzo sul post-up l'abbiamo scritto sull'altitudine, perché ieri il tour è arrivato a 2300 metri dell'Isoar, e Cunego stamattina ha vinto una tappa in Cina a 4100... qualcosa. Sì, 4000 metri di altitudine, perché era in Cina al tour 4120, ecco, al tour di Qinghai Lake. È una corsa che tra l'altro lui aveva vinto nel 2003, cioè 14 anni. Sta tornando il Cunego del 2004. Ma speriamo, perché ce ci auguriamo, ci divertiremo. Cunego sta simpatico a tutti quanti noi, detto indubbiamente. E ci vorrebbe a quel punto anche Simoni, però, se no non ci divertiamo. Continuano a sentirsi a proposito di simpatici. Comunque, a proposito di simpatici, finisce qui la rubrica di Twitter, ma inizia tutta un'altra musica. Il Tour de France, la gara ciclistica più mondiale di tutto il mondo. Sicuramente più mondiale del Giro del Mondo, che è talmente provinciale da non esistere. Il Tour de France, la corsa ciclistica seguita da tutti quelli che contano. non come la Vuelta, dove se va bene viene seguita da quattro avvinazzati spagnoli. Il Tour de France, un manipolo di eroi, in bicicletta, in Francia, a luglio, sotto il sole, sotto la pioggia, sotto il vento, sotto la grandine, sempre in bicicletta, sempre in Francia, che è sempre bella con ogni tempo. Il Tour de France. Riuscirà il keniano bianco a vincere per la quarta volta il Tour de France ed entrare nella storia? Non come al Giro d'Italia, che non si ricorda nessuno chi l'ha vinto già dopo un mese che è finito. Il Tour de France. Emozione, ciclismo, passione. Seguilo da casa tua su Rai 3. Puoi anche rimanere in canottiere e mutande. Ci ha autorizzato la voce a rimanere in canottiere e mutande durante il Tour de France. Ma non si parla male degli altri, cioè non si può dire queste cose sulla Vuelta e sul Giro. Ma questo è lo spot che dobbiamo mandare necessariamente. Ed è vero, tra l'altro. Ma chi l'ha vinto il Giro quest'anno? Tra l'altro è quello che dice Froome. Ma chi non ha vinto nessuno? Cioè la Vuelta, chi la guarda la Vuelta? Vabbè, va Froome, ma si ubriacherà anche lui. Dai, basta, è solo il Tour de France. Vabbè, meno male che mancano due giorni. Assolutamente. Poi sì, la Vuelta non è su Rai 3, quindi che interesse abbiamo a guardarla? Comunque, noi oggi abbiamo parlato come se fosse l'ultimo giorno. Esatto. Non è l'ultimo giorno. Bravo, c'è una Angelo. Tappa anche oggi. Nessuno ha capito bene com'è sta tappa di oggi e ce lo spiega, come sempre, il nostro Pietro Pisaneschi con i suoi resoconti sulle tappe e la tappa che verrà. L'ottimo Pietro. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 19ª tappa di questo Tour de France 2017 da Ambrun a Salon-de-Provence per 222 km, la tappa più lunga di questa Grand Boucle, giunto ormai alle sue battute conclusive con Chris Froome vicinissimo a blindare il suo quarto successo in giallo. Durante i 222 km odierni, tre salite di terza categoria disseminate lungo il percorso avranno l'unico scopo di rendere la vita dei probabilissimi fuggitivi più complicata del previsto, visto che i discorsi sulla maglia Poix sono definitivamente chiusi in favore di Warren Barguil. Il gruppo affronterà due salite prima di entrare in Provenza, il Col Lebro e la Côte de Brézis, ed una a 50 km dall'arrivo, il Col du Pointu. Come spesso accaduto in questo tour, l'ultima asperità di giornata risulta però essere troppo distante dal traguardo per poter scombussolare i piani tattici delle squadre degli sparuti velocisti rimasti in gruppo. Uscito di scena Marcel Kittel, la maglia verde è attualmente sulle spalle di Michael Matthews e nessuno può attentare ad essa. Nella classifica a punti, infatti, l'australiano distanzia il secondo, ovvero André Greipel, di 164 punti, mentre nelle restanti due tappe in linea di questo tour possono esservene raccolti al massimo solamente 90. Al corridore della Sunweb basterà dunque arrivare a Parigi per ottenere la maglia verde. Oltre ai suddetti Matthews e Greipel, i principali contendenti ad aggiudicarsi lo sprint di Salon de Provence sono Colbrelli, Christophe e Boissonhagen, al netto dei fuggitivi, ovviamente. È tutto per oggi, l'appuntamento è per domani, vi invito a seguire la tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir! Una tappa particolare quella di oggi, un po' bizzarro vederla lì tra l'ultimo arrivo in salita e la cronometro finale. Vi siete dati una spiegazione, Leonardo, perché c'è sta tappa oggi? Ma è la tappa più lunga del tour, come ha detto Pietro. Secondo me, intanto c'è un motivo geografico, dovevano spostarsi dalle Alpi a Marsiglia, in mezzo ci voleva qualcosa. Non lo so se loro speravano che fosse aperta la lotta per la maglia verde, magari, purtroppo invece la classifica per appunti è già chiusa, Matthews l'ha vinta e quindi questa tappa un po' perde di interesse. Resta il discorso della fuga, perché ci sono davvero tanti saliscendi, c'è questo Col du Pointu verso la fine, che tra l'altro cambia tutta la nostra teoria su Col e Cot, perché pur essendo una salitella corta a 500 metri di altitudine si chiama Col, non si chiama Cot. Dobbiamo approfondire il discorso su Col e Cot. Domani parleremo solo di questo, tra l'altro. Quindi, secondo me, questa tappa è stata scelta per portare il tour in dei posti con dei nomi bellissimi. Ad esempio, io sto guardando l'altimetria, si passa da Sisteron, che già mi è sempre piaciuto molto. Vero. Poi c'è Saint-Étienne-les-Orgues, che credo sia Santo Stefano delle Orge. Splendido posto. L'ultimo prima della volata si chiama Mallemort, che già i velocisti lì, secondo me, un po' si preoccupano. Ma soprattutto l'inizio del Col di Pointu si passa in un posto che si chiama Apt. Vero, si chiama Apt. Me lo diranno i francesi? Apt. Oh, oh. Su, dai, chiamiamo Macron. I francesi all'ascolto ci illuminino. Su, facciamo il nostro la nostra gara. Un nome secco, ragazzi. Leonardo. No, ne faccio due, perdonami. Uno per la fuga. Se va la fuga, dico Cummings. Se arrivano in volata, dico Boston Hagen. Oh, vincerà una tappa Boston Hagen a questo tour prima o poi. Filippo. Fuga Sylvain Chavanel e volata Nasser Bouhanni. Bouhanni, che ieri è arrivato ultimo, credo, tra gli ultimi. Ultimo un suo gregario, un suo gregario. Sono arrivati in tre della Cofidis in fondo. Va bene. Abbiamo qualche domanda, cioè sì. Una in particolare a cui volevamo rispondere, che era quella sulla tattica della Astana di ieri. Visto che tutti ne hanno parlato, noi l'abbiamo sorvolato come argomento. Che possiamo dire sulla tattica della Astana? Noi pensiamo, almeno ci siamo confrontati ieri, che al mattino Aru abbia molto onestamente comunicato alla sua squadra e ai suoi compagni che la condizione non era quella dei giorni migliori, e quindi gli ha concesso in qualche modo una giornata di libertà, e i suoi compagni, tra cui Lutsenko, che è quello che è arrivato poi più in là con la fuga, ci ha provato a vincere la tappa. Semplicemente non era una strategia per mandare in avanscoperta e poi aspettare l'attacco del capitano, secondo me. No, credo anch'io che servisse a poco avere dei compagni con sé ad Aru ieri. E queste cose in squadra si sanno, quando uno la condizione la vede svanire. Poi questa fuga è stata anche anomala, perché sono entrati appunto in 52 in fuga, che tante volte in questi casi noi pensiamo che ci siano dei calcoli: io vado in fuga, tu no, io sì, tu no. In realtà tante volte in queste situazioni il gruppo si spezza e qualcuno si trova davanti e qualcuno si trova dietro. E nel momento in cui ti trovi davanti nella fuga, sì, se hai un capitano a cui devi stare a fianco assolutamente ti rifreni e aspetti, ma se no ci stai nella fuga, giustamente, chiaro, perché serve. Angelo, tu sei d'accordo? No, non sono d'accordo, e su questo lo sapevate già che non sono d'accordo, perché comunque va bene, sì, giusto, proviamo a vincere la tappa, che tra l'altro non abbiamo vinto, però la Sky non ragiona così, la Sky vince. Mollare Aru e il suo destino sull'ultima salita, boh, mi sembra onestamente, probabilmente perché sanno che Aru non rifirmerà con loro e quindi se l'è già andato via, che, sì, va preso, arrangiati, questo è il ragionamento. Ovviamente non è così che si vince il Tour de France. Sì, infatti sì, non vincono. Probabilmente sapevano di non poterlo vincere in ogni caso, però ha senso anche questa tua obiezione. Vabbè, che poi probabilmente Aru firmerà con la UAE di Saronni, questo è quello che ormai dicono tutti, e forse lui contava di avere loro come gregari. A un certo punto ieri si è visto Menches in testa al suo gruppetto per la prima volta. È vero, ieri abbiamo visto Menches. E quello che è riuscito a fare in quel momento è stato continuare a girarsi, perché anche lui, secondo me, era stupito dall'avvenimento. Perché lui non sa pedalare se non vede qualcuno di fronte, quindi in realtà era avanti però con la testa girata per avere, capito, la sensazione quando che qualcuno fosse avanti. Quando Menches vincerà il Tour de France, poi ne riparliamo. Ma speriamo. Quando Menches vincerà il Tour de France, noi ci appassioneremo a un altro sport. No. Ma invece, l'ultima cosa, Alex, fuga di Benoit, che però forse è ancora in classifica, difficilmente lo fanno andare lontano. Non so quanto sia in classifica, ieri è andato molto forte. Sì, sta andando bene in generale in questo Tour, Benoit. Potrebbe essere, sicuramente un lotto ci sarà, anche se... c'è un altro elemento nella tappa di oggi. Per chiudere il discorso sulla tappa di oggi, le squadre dei velocisti sono poche, sono abbastanza decimate, e ci sono meno velocisti, per cui meno squadre che si sbatteranno. Soprattutto, cosa farà oggi Julien Vermote? È vero, magari vince la tappa. Va in fuga e vince la tappa per lui. Speriamo. Comunque, sapete chi sta andando veramente bene a questo Tour de France? Soltanto una persona è veramente quella che migliora quotidianamente, ovvero Fiammetta Ruiu, la nostra inviata sulle terre di Francia. E siamo tutti pronti a... Mi sta già venendo la pelle d'ocra prima ancora che inizi. Fai bene, perché sta per iniziare il resoconto ocra. Vabbè. Questa storia inizia in luoghi magici, luoghi di storie, luoghi di racconti. Qui si racconta la leggenda di alcune entità che si incontrano mattina e sera. Immagino. Esseri già immateriali vivono in questi luoghi e si incontrano. Bello. Proprio qui, dove inizia questa storia, pare si incontrino la terra e il cielo. Non avevo dubbi. In questi luoghi di incontri eccezionali vive Fra, giovane cartomante di Salon en Provence. Fra nutre un sogno nel suo cuore morbido e incasellato. Vaticinare il futuro alle carpe striate della Provenza. Bello. Ma che senso ha? Forza, Fra, vai al fiume, vai. Cerca le carpe striate, sì. Convincile a tagliare il mazzo di carte. Brava. Porta un progetto al comune e dai un futuro ai tuoi sogni. Brava. A tagliare le carte. Purtroppo, le però, Le leggi del mondo non si piegano in favore dei progetti sconclusionati. Grazie a Dio. Dure e spietate le leggi del mondo. Maledette. Le carpe striate della Provenza, infatti, non si dimostrano interessate al loro futuro. Meno male. Fra non riesce a trovare un punto di contatto con i pesci, e allora cade in acqua, cade nel fiume, si bagna e bagna tutte le sue carte. No, le carte. Così, Fra, perde le carte, perde la casa, perde il lavoro, perde la dignità e perde anche una lente a contatto. E beh, anche questa ora, ci mancava. Nei suoi occhi appannati e fuggitivi non c'è più niente. Le carpe se ne sono già andate. Brave, e c'è carpe. Solo tanta, tanta, tanta malinconia. Eh certo. E manca una cosa. E mi mentre sa. Una lacrima bagna il suo viso già bagnato, un airone guizza nel cielo, attonito. Bello. L'airone guizza, mi piace un sacco. Hai notato che finisce sempre con questa storia dell'airone? Hai fatto caso? Ma guarda, alla 19ª puntata forse ci sono arrivato a cogliere questo particolare. Hai notato che c'è il ritorno di alcuni aggettivi? Sì, alcuni, tipo attonito, ti riferisci a quello? Ma ogni tanto lo sento. Ma scusami, ma le carpe, ma tagliare il mazzo, ma di che stiamo parlando? Ma secondo me è nobilissimo il progetto di Fra. E lo porta al comune? Ma certo, ovviamente, perché in Francia si fa così. Sì, cioè, qualsiasi cosa ti viene in mente devi portarla al comune. Assolutamente, okay. C'è sempre un passaggio istituzionale da fare, certo, lì in Francia. Certo. Le carpe striate della Provenza, bisogna... Era il comune di Apt. No, il comune di Salon de Provence. Salon de Provence, che è quello di Nostradamus. Assolutamente, visto? Ah. Vabbè, ma lei ne sa, ora, lei ne sa. E come realizza le cose che mi lascia... È bravissima, Fiammetta, forse verrà negli ultimi giorni qui con noi. Vabbè, e avremo da imparare. Se proprio deve. Io sto già imparando un sacco, assolutamente. Non aspetto la sua presenza fisica. Io invito Bidon a fare un cofanetto di tutti i resoconti ocra. Dici? Anziché il vostro classico libro con le storie del ciclismo, facciamo i resoconti. In allegato ci mettiamo un DVD con i resoconti ocra. Assolutamente, è un'ottima idea. È un'ottima idea. E purtroppo ce lo stiamo litigando con lo sponsor, perché pare che uscirà con i reloj equivocados della Vuelta. Bene, noi per oggi abbiamo concluso. Mi sa di sì, mi sa che ci non siamo abbiamo, anche oggi. Vi lasciamo alla tappa di oggi con l'obiettivo di capire che tappa sarà e perché c'è questa tappa. Magari e siete di fronte alla televisione. Magari trova un senso questa tappa che noi non immaginiamo in questo momento. Vabbè, siamo in attesa comunque di capire cosa succederà domani, perché domani si è a Marsiglia. Domani Marsiglia. E chi va a Marsiglia? Non lo so. Peste lo piglia. No, c'era una versione un po' più volgare, ma non la diciamo, no, però salutiamo diciamo. Tutti i nostri ascoltatori, sia quelli in remoto che anche quelli presenti, che sono silenziosi, ma abbiamo del pubblico in sala silente. Assolutamente. Vi ricordiamo che noi ci sentiremo domani mattina nuovamente alle 11, saremo sempre in diretta, sempre a Cagliari. Vi diamo appuntamento anche alle altre iniziative di Bidon, cioè oggi pomeriggio dopo la tappa il classico post di commento e di racconto. Sì. E la frase io oggi non l'ho preparata, spero abbiate voi qualcosa pronto. L'ha preparata sicuramente Filippo. Io forse ce l'ho. Quindi vi salutiamo come fanno altri migliori di noi, dicendo restate col ciclismo che è in Francia a luglio. Su questo non ci sono. A domani. Dubbi. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobet.